chiamava? Perché parlava male, si frequenta proprio i coglioni, capito? Qualche volta lo voleva picchiare, lo voleva, mamma mia. Allora diamo esempio, ma chi non ti computa di me, ma parola di fare di nemici di difesa. Ad esempio con i barolacci, con le cose brutte, mamma mia. Vabbè. Non mi ricordo, ma qualcuno mi ha anche fermato, non lo dire. Che c'ha la vita di parlare male, cosa, che anche lui la sta giù di là, la sta giù. Cosa vuoi fare? Purtroppo la vita gioca dei brutti scherzi, cambiano tutti, tutti quanti, come ti dite. Quando erano tutti quanti coalizzati, quanti anni casino. Edda, la cipollina la giuretta. Chi sei stato un po' più dopo? Ma poi negli anni hanno perso tutto il loro potere. No, non era più nessuno, nessuno ne bucava, faceva quaggia. Prima buscava quelle forte Francesco, ma pigliava giunge. Oh, dopo, negli anni, ragazzi. Ti vogliamo bene, allora. Cioè, perché erano più scatole, non potevano tutti i carti di curiosi. Anni di tutto successo, hanno perso il loro potere. Ho detto che in questi anni hanno perso il loro potere. Non so neanche, ma va, si ripete, no, non si può, sono tutti più demarato, ma non si vi più che sta con la moglie. E cosa vuoi fare? Purtroppo. La vita fa brutti scherzi. No, sono entrati, quando sono entrati da Saiga, a di mano mi è uscito in terra. Avete pintato una casa completamente diversa, diventata da una stalla, a una casa di passata. Mamma mia, che schifo! Mamma mia, che schifo! Tutti quanti, molti male, grazie. Ma pure il gatto, fate la gente, ma pure fare un pimericattoli. Ah, ma di ma di tu, mi stai disciubando in televisione. Disciubando in televisione. Mi esco tutte le righe, tutta la calice le righe. C'è il buco con la acquino a me. Ha detto mi si è messo tra la gura a me. Thank you. sicuro che ti avrei avuto difficoltà a sentirti, ma tu devi arrivare per tutto da me, e se non vado, se non arrivi da me ti rampo tutto, ti rampo tutto gatto, no? In chi si parla a te da 25-50 anni e tutti tu usati, non è altro problema, anche con qualche onda va bene, senza radiali, come quella lì però più alta, più grande, e allora ho fatto delle dita, non è una più mancuna, se no la guarda in bocca. La performance e ci dà più sciacquata di me. Arrivi anche dentro Sassari, arrivi molto bene, molto forte. E poi non è che ha bisogno di tutti questi piatti, è l'antenna quella che conta, quella che ci fa da padrona, è l'antenna. Se tu metti un'antenna buona, a 50, che chi mi fa dei botti, comunque. Se ci la buchemo e cosa. Cambia dal giorno alla notte, cambia. Allora anche ci vuoi. L'Italia farà quando di propagazione, un po' di spagnolo, un po' di pietà pura. Io mi ricordo che tu sono un po' di amico assoluto di quando mi durante tutti i due da questo fermento, un po' forte. Arrivava Sant'Elio esci lunga a magazzino, allora esci ma cosa mi è andata la cabeciuria, cioè a colpire sul tetto l'antenna, con l'antenna sta rendendo in tutte le parti, capito? Quella nel balcone uscirebbe la metà, uscirebbe sul tetto, è noto che sul tetto ha tutte le sue prestazioni l'antenna. Quello è già giunto, c'è la buca di una pure senza radiale. Capisci una bomba che ci manchi. Oh, vabbè. Sto mettendola più in alto magari. Beh, ma la faccio un po' forte. Non c'è forte, no, con un negato di cuore. Anche tu è sotto? No, con chi? Cioè, per fare quello che vuoi, lì, capito? Ci vogliono il sacco, ci vogliono il palo. Ma quando c'è tempo, adesso questa bella serata si può antennare in alluminio anche la falsedine i cudi e la falsedine è un casino ma adesso gli assegnare da voi e poi come ci può seguire vuole dire un'antenna come si deve dire ci può seguire. La vulgarità di tutta e non è entra di cose ma deve tutta vulgarizzare la penna e no, non gli fa niente poi non ci sono le giunture devo mettere vulgarizzante, capito? Non ci sono tutte le giunture trac, trac, trac e dove c'è il PL lì dove quando c'è la penne alte tipo quella che ho fatto stamattina quello lì va bene quella non andava da un metro di andava così però quando va andando avanti tutto dove c'è le giunture tutto puncarizzato deve passare parla adesso da me adesso no, questo c'ho io questo apparecchio no, adesso ho collegato un po' parla adesso da me questo è lo so. Ma quello di la colonna papata c'hai. Ho detto la colonna papata c'hai. No, no, però non mi sentono tutti bene questo apparecchio. Sì, Gabriele sempre prende un masco. Ma la papilla del suo mamma mia, quello sono cane. E qui abbiamo di musica da chilinghi. E adesso tra un po' faccio dormire, se ho fatto un casino della Madonna, visto? Sì, sì. Ho fatto un po' di casino, guarda. Ma devi dormire, non devi fare casino. Ma vabbè, ma la mangiare lo devo rimanere in dire, magna. Ecco, già, Tizio, cosa ha fatto? Cioè, era poco tempo che era, poco tempo che era, poco tempo che era. Ma guarda, ma mi posso mangiare in mezzo dire come la mangiare. E boh. Quindi mi mira, la vai, c'è un cazzato, la vai, non è che cazzo potrà mangiare. Cioè, ma, cosa, ma tu hai messo, non so che dico, fa cosa a posto. Guarda, si manda di chissà cosa, si manda tutti là a culo, si manda. Mi pare che mi dico, con lo caos, mi dico, cioè, ma tu hai messo, ma tu hai messo, quando ti hai ritirato, per tutta, ma ecco. Ormai mi dico, non dici, mi porto la stessa rata, mi dico con la madre di Giuliano, la piglia nel culo. È che mi era bella in terra, no? Mi era bella in terra. Io ho fatto un po' di rinforzo. sentito molto bene che ti sarebbe seguito un camioncino. Ecco, io vabbè, sto aspettando di guarire, non appena riprendo dai rapporti tutto quanto, mi faccio dolore, tutte cose, il camion si mette un altro amico, la corretta, non vedo l'ora di mettermi a posto se muovo. Questo che dico, lo fai in moto, Non lo so, dai, non è una puttina, mi dice il motocarro, mi dice che vi aggetti. Ma perché? Non è uno di un nostro che fa di un'altra cosa. A poco male a tutti gli arrivati, non me la punti nulla, a me li bongo in un giacca. Non pago nulla. Tanto sono per di tutti i gusti. Non pago niente. Cioè, non mi dice che la matrice ti sarà bloccata a casa, la dicevi, un rigorito, adesso ti bloccherà a casa. Forse tutti gli altri che si piccoli trasportini. Forse pure roba nuova, ecco. Mi busciacca. Ma posso fare un 50 euro a viaggio, ma tu? Adesso pigliando così dai 40 alle 50 euro a viaggio. Cosa mi vuoi, senti, mi sento in avanti, non paghi un tasso, non paghi nulla, non mi ha fatto niente. Guarda, almeno l'80% non ha fatto niente. Qualche minuto un po', la verità, lavora così, a volte capita andare a fare le serate, cosa che è già un pochino. La verità, tra poco, quello, è un po' strano, capisco. Sono un po' utile, sì, questo. Allora, poi, grazie, già sta lavorando, diciamo che non sta morendo. E ciò vuol dire che si sta capendo. Ah, vabbè, chi pretende nel masturbante? Ma sa che mi può salirci di là, di ieri, che va tutto. No, non è che mi pretenda che mi ammazza manco di travaglio, no. Io basta che faccia qui, per tanti mila al giorno, guarda, non mi ha tutti in un caso, bene così. Anche tanto, cioè, mi stavo pensando a questo, basta che mi dicevo toccare ogni angola. Anche tu mi diceva, questo è bene, ha fatto, allora, un cigarro, tra, un mobile, una cosa. Non è che tu mi stai ammazzando il travaglio nel macchino. Ma se mi può stare che ci sento i ravi? Tutti i 50 che non hanno mandato, non è più giusto. Ma vabbè, poi arrivi a tenere, inizio a piantare, e nel momento che non stai facendo niente, ti spiace quello. Però che appunto, quella cosa lì, non è passato la giornata al giorno, perché dopo un lavoro che è passato, sì, che la settimana che fatti e lavori, viaggi, vai e torni, diciamo che guadagno quasi. Però c'è anche quella settimana che purtroppo che fai un solo o due utilizzati, però con la settimana che hai detto 5 di soldi siamo qui da quella settimana che è stato povero, capito? E già non c'è ragione, già non c'è ragione, capito? Anche se c'è questo spazio di guadagno, tutto più spazio, no? C'è un lo zio di mia moglie che conosce un padre di Brunetto, un padre che ci trasportino e poi è una cazzo mi basta la di chi vuole e lui prova di russi 50 euro, mamma pure che ha fatto 100 euro la di 50 euro la di mi ha mandato pure un cuscino la paraghetta mi dai piano. Cioè, intanto io non mi devo bere, troppi casini, troppi cose, no. Troppo proprio, non mi sa se più una cosa, troppi cazzato. Cioè, Io c'avevo parlato qui a togliere le giamme, ma l'altro di lì, ok, sto arrivando, tra che mi sono viaggio, ma per lui ha fatto l'altro viaggio, tra... Un provato, mi ha fatto visto un po' più poco, niente, ma qua a me mi manca un camminatino, sai. A me mi manca in questa 10 bocco di dina, io ero più tranquillo. Oh, io ho un amico che una vita di tanto autobus è andato in pensione, perché è un vicino studio in Gianellato anche. E visto che era in pensione, lo prendo in una persona, tanto per cui faccio l'ospedale, per salire qualche mese, qualche settimana, la porta, e qua no. Perché io faccio, lo porto in un'unità. Però l'umanità non è tutto di più, lui è fatto a pensare a te, è abituato alla vita, a pensare a un altro anno, e la cosa che sperava era che non era una funzione, ma non è un lavoratore, è io urgentemente lo metto in bagno, va, dai, buio che chiudo, va, ciao, buonanotte, ci risentiamo, ok, vado in bagno, burrendo, burrendo. Buonanotte, ci riprendiamo domani, per tutto coincido, ok. Ciao, buonanotte, buonanotte.